Allora, Vertenza l'Alba è nata praticamente un anno fa, quando i lavoratori di questa stereria di Montemurlo si sono rivolti a noi denunciando appunto contratti applicati delle pulizie con paghe orarie da meno di 6 euro all'ora, aziende false all'interno di uno stesso luogo di lavoro per poter dividere lavoratori e anche usare un diverso contratto nazionale, straordinari non pagati e turni di lavoro da più di 60 ore la settimana. E appunto un anno fa facemmo una vertenza insieme ai lavoratori in cui ci fu l'internalizzazione e il rispetto dei contratti e dei turni di lavoro di 8 ore al giorno per 5 giorni la settimana, e ad agosto poi veniamo a scoprire che l'azienda L'Alba aveva provato a delocalizzare la produzione in due stabilimenti diversi per poter lasciare senza il posto di lavoro gli operai che si erano iscritti al sindacato. Da settembre è partita quindi uno sciopero, c'è avuto anche l'episodio della titolare che ha picchiato uno degli operai attualmente in sciopero, e in questi mesi abbiamo lavorato e lottato insieme ai lavoratori per far sedere tutti i committenti dell'ex stereria dell'Alba, committenti comunque di un certo calibro, parla di nomi come di Patrizia Pepe, e creare per la prima volta un tavolo di filiera in cui poter ricollocare fondamentalmente tutti i lavoratori e anche le commesse che prima venivano lavorate all'Alba, in un episodio che sarebbe il primo in assoluto in tutto il settore della moda e dell'abbigliamento, e che potrebbe aprire una strada nuova e diversa nel settore anche contro il caporalato e lo sfruttamento. Recentemente la notizia è di una settimana fa. Il Tribunale di Firenze, a seguito della richiesta della Procura di Prato, ha concesso la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria per l'azienda Piazza Italia, che è una nota azienda italiana di fast fashion che ha sede in provincia di Napoli ma che ha negozi in tutta Italia, che secondo le indagini della Procura avrebbe esternalizzato gran parte della confezione dei capi di abbigliamento a due aziende con titolari cinesi con sede a Prato, che costringevano i lavoratori a lavorare in condizioni disumane. Ti volevo chiedere come commenteresti questa notizia alla luce anche dei recenti sviluppi della vostra vicenda. Ma sicuramente è una notizia positiva, nel senso che finalmente, a partire anche dalle inchieste avvenute nel Milanese, si sta cominciando a perseguitare chi veramente fa i profitti dallo sfruttamento e chi sta in cima alle filiere. Detto questo, la nostra posizione è che ovviamente l'azione giudiziaria da sola non basta a garantire un lavoro degno e stabile in queste filiere, ma la sindacalizzazione e il garantire con gli scioperi, con la lotta, dei posti di lavoro stabili, con stipendi dignitosi che rispettino i limiti dei contratti nazionali, è la via per combattere lo sfruttamento. Noi Piazza Italia l'avevamo conosciuta 4 anni fa durante una vertenza sempre in una stireria, in una confezione, perché era appunto già all'epoca la committente di una di questa stireria in cui le persone lavoravano 12 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, senza contratto, e in quell'episodio vennero licenziati semplicemente perché chiesero al titolare di non lavorare a Pasquetta. Quindi appunto poi è bello anche vedere come finalmente, dopo tutti questi anni, si stia cominciando a smuovere qualcosa anche dal punto di vista giudiziario, ma al centro deve rimanere la lotta sindacale e l'organizzazione dei lavoratori all'interno di queste filiere.